la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Signore e signori, buonasera. Il Teatro dell'Ovvio vi dà il benvenuto. Tra pochi secondi lo spettacolo avrà inizio. Vi preghiamo di accomodarvi ai vostri posti. È il comandante che vi parla. Alle vostre spalle potete trovare i servizi igienici, ai lati le uscite di sicurezza. In caso di emergenza si illumineranno i vostri uffici stampa di crisi sotto le vostre poltrone e dai vani portaoggetti automaticamente scenderà un'apposita mascherina di fraseologia antimafia da comizio. In caso di ammaraggio, premuratevi di indossare il giubbotto salvasdegno che trovate nell'apposito cassetto. Al suolo, un'apposita illuminazione vi indicherà la via più facile. Percorretela senza rimorso per portarvi al portellone delle posizioni di tranquillità. Uno scivolo politico vi permetterà di ritornare agevolmente a terra. Si prega di spegnere i telefoni cellulari per evitare fastidiose intercettazioni. Ricordatevi che, causa la sconsacralità del banchetto, sarete ascoltati, monitorati, citati, censurati, inginocchiati, manganellati, confiscati, giudicati e, nella peggiore delle ipotesi, governatori dal popolo votati. Vi auguriamo una pasciuta visione e tanta gioia. Ma soprattutto serenità, per voi e per la vostra famiglia. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Questo è un estratto dello spettacolo Dout Des di Giulio Cavalli. Cavalli è un attore, prima, poi scrittore, infine politico. È milanese, lavora in tutto un altro ambito, ma ha la passione per il teatro civile e si mette a fare ricerca. Una ricerca che a un certo punto si scontra e infastidisce i poteri criminali che anche in Lombardia, ormai da tempo, gestiscono un grande giro d'affari, come racconta bene anche Roberto Saviano in Gomorra. Chi mi voglio salvare? Ve la raccattare vita vostra, Don G. Non va a regali a vita vostra. Non mi fa punto. Non mi accende la gente e ci serve nei soldi. Per dito tempo. Mi si dice molto capito. Ma eravamo tutto compagni prima. Non mi piace sta parola, eravamo prima tutto compagni. Prima. Poi i compagni vostri hanno cominciato a fare schifezze. I familiari non erano brava gente. Bum, bum, bum, hanno fatto. A così ce l'hanno pigliata. Quindi qua non venia a dire di passare quella da parte. I punti. Hanno ucciso la coccarone. E ci servono i soldi. Se no muori tu, perché fai parte della guerra. E quando Cavalli comincia a raccontare cosa sia la mafia al nord, che la faccenda cambia. Il ragazzo è considerato uno da eliminare. Per Cavalli viene istituita la scorta. La sua vita e quella dei suoi familiari, figli compresi, non sarà più la stessa. Quella, in assoluto, sarà la sua prima volta. Sono dal 2006, sai, in questa situazione. Ho vissuto cose anche molto più infime e basse. Dal 2006, perché lei nel 2006 denunciò dei fatti di 'ndrangheta e per questo venne messo sotto scorta, ci può raccontare? Nel 2006 ho cominciato questo lavoro che inizialmente era sulla Stidda Gelese insieme a Rosario Crocetta. Ai tempi Rosario era sindaco di Gela e abitavo in un territorio molto vicino ad alcune famiglie gelesi, soprattutto era in Civillo, che è quello dell'Odigiano, del sud Milano, dove ancora oggi i gelesi comunque hanno un'isola di controllo abbastanza ben definita, e quindi è nato tutto da lì, sai. Quindi io parto come minacciato dagli stiddari e poi passo, insomma, sono stato abbastanza eterogeneo nelle minacce. Ma lei quando, allora, cioè giusto per capire, insomma, a un certo punto lei si è ritrovato di fronte alla possibilità di dire o non dire la verità? Mettiamola così, cioè di denunciare o non denunciare. E ci sarà stato un momento di riflessione, insomma, e deve essere stato difficile anche dire a questo punto andiamo avanti. Ma guarda, La mia vicenda è, la natura della mia vicenda è un po' diversa da quella di Saviano, nel senso che io comincio a ricevere dei segnali inquietanti che potevano essere letti come semplici avvisi o potevano essere qualcosa di più, e poi è stato tutto un crescendo, quindi non ho vissuto la mattinata in cui improvvisamente mi ritrovo catapultato in un altro mondo, ma ho vissuto questo climax che mi ha portato poi ad essere come sono. Quindi la consapevolezza c'è sempre stata, nel senso, noi abbiamo avuto moltissimi momenti per poterci fermare. È anche vero che a un certo punto, quando la delegittimazione aveva cominciato a farsi strada, abbiamo ritenuto giusto provare a raccontare le mafie sempre più vicine, sempre più locali, proprio per evidenziare quanto la presenza non fosse dovuta ad aspetti scenici o teatrali, ma fosse una realtà nel territorio. E quindi sì, ho avuto la possibilità di smettere, e sì, abbiamo deciso di non smettere. Dico abbiamo perché poi il lavoro è il lavoro di tutti, quindi della compagnia teatrale, di chi lavora con me, di chi con me ha scritto i testi in questi anni. E non, io ho sempre collaborato con giornalisti e magistrati, quindi sono un teatrante abbastanza atipico da questo punto di vista. Ed è anche soprattutto molto giovane, anche questo secondo me a volte in Italia soprattutto risulta una carta a sfavore, anziché essere visto come un elemento diciamo, neutro, almeno dovrebbe essere. Sì, ma sai, io ho preso una presa di posizione subito ferma, nel senso, io non credo che la criminalità organizzata venga sconfitta né solo con i libri, né solo con i teatri, ma neanche solo con gli studiosi. La criminalità organizzata ha bisogno di un fronte compatto, ognuno con le proprie specificità e con i propri talenti. Io credo che l'antimafia abbia bisogno di diventare popolare, ogni tanto provocando, dico che debba essere addirittura pop, e quindi inevitabilmente ho affrontato e affronto questa sfida con quelli che sono gli spigoli della mia età, ecco. E ogni tanto posso essere molto maleducato, molto appuntito, non sai, di solito si dice che noi ce l'andiamo a cercare. Boh, se devo essere accusato di essere maleducato nell'andare a cercare di allenare il muscolo della curiosità della denuncia, sì. Ecco. E in casa lei ha parlato dei suoi figli, insomma, come viene vissuta la scelta che lei fa? Loro sono cresciuti, per loro questa è la normalità, cioè stupisce, rimangono stupiti da quelli che non hanno i carabinieri intorno. E devo dire che da questo punto di vista sono sempre stato fortunato, e sono fortunato ad avere delle persone vicino, e ci metto dentro anche i miei figli, che hanno avuto molta maturità, molta intelligenza. Tieni conto che, e questo non me lo faranno perdere nemmeno le male lingue, io continuo a rivendicare il diritto e il dovere al sorriso. E quindi affrontiamo tutto questo sempre con molta ironia e autoironia. Senta, le faccio un'ultima domanda, poi la lascio andare. Qual è la sua famiglia d'origine? Cioè, com'è stata la sua infanzia? Cioè, chi era lei prima di diventare Giulio Cavalli, che tutti noi conosciamo? Cioè, da dove viene? Ero il tipico lombardo di provincia che, quando ha guardato la televisione via D'Amelio con il fuoco ancora acceso dell'esplosione di Paolo Borsellino, pensava che fosse qualcosa di molto simile alla guerra e qualcosa sicuramente di molto lontano. E quindi sono il prototipo esatto degli indifferenti che cerco invece di educare diversamente con il mio lavoro. E diceva Falcone che nella lotta alla mafia ci cade un per caso, per destino. Io credo che nel mio destino ci fosse il caso di capitarci dentro. Poi, siccome nasco come giullare, quindi con il comandamento di doversi prendere sempre la responsabilità di deridere il potere, soprattutto quando è prepotente perché non riesce a governare secondo le regole, Ecco, allora io penso che per un giullare oggi in Italia il potere mafioso in tutte le sue forme, sia quella militare che corruttiva, eccetera, sia il vero re da rendere nudo il prima possibile. O almeno questo penso che sia il mio compito. Il 3 agosto del 2013, in una videointervista, il pentito Luigi Bonaventura racconta come le cosche fossero pronte a uccidere Giulio Cavalli, simulando un incidente. Questo che vi facciamo sentire, un estratto dell'intervento di Bonaventura. Ci scusiamo per l'audio. E tra questi giornalisti esce il nome di Giulio, che era quello che stava scattando la mini. Giulio Cavalli. No, sì. Giulio Cavalli. Perché lui era stracontento, diciamo tutte le cose che noi sappiamo, che andava pure, cioè, che c'era. E parlavano di poter trovare qualcuno che avrebbe potuto in qualche modo delegittimarlo, e in ogni caso il discorso finale è che come sarebbe rimasto a piedi senza copertura, una sera di questo gli sarebbe successo un incidente. Prendersi gioco dei mafiosi, porli in ridicolo, farli vedere nella loro vera luce. Questo fa andare in bestia così tanto le cosche che iniziano le intimidazioni pesanti. Cavalli non si ferma e così vanno avanti anche gli spettacoli teatrali e le rubriche alla radio. In un'asse di collaborazione tra Lodi e Gela si assiste alla creazione di una denuncia forte, condivisa, che fa paura a Cosa Nostra. La prima volta. È amara la confessione di Roberto Saviano, da 10 anni sotto scorta, che in un'intervista a Il País dice: «Se tornassi indietro non scriverei Gomorra». Una considerazione che anche Giulio Cavalli, attore sotto scorta, per le stesse ragioni, in parte condivide. Beh, la vita che fanno un po' tutti quelli che sono costretti a mettersi sotto la protezione dello Stato, e quindi significa avere un'esistenza che deve per forza essere organizzata in tutti i suoi spostamenti, anticipata dalle forze dell'ordine. E in questo paese sono quasi 800 persone che sono sotto la morsa, diciamo, di una vita passata così. Quindi io credo che al di là dell'aspetto prettamente tecnico, rientra in un accordo tra tutelato e tutelante, quindi in questo caso il Ministero, poi c'è la questione prettamente personale, quella ognuno la vive un po' a suo modo. Io ho passato momenti sicuramente non facili di sconforto, e poi meno male ci si abitua a tutto. Ecco, perché dice di sconforto? Soprattutto per una questione di difficoltà fisica a muoversi, o c'è qualcos'altro dietro? Ma è comunque inevitabilmente, poi la paura è un sentimento latente, ma sempre presente. Ovviamente poi dipende anche dal periodo che si sta passando, quindi da quali denunce stanno portando avanti. E comunque in questi anni ci sono stati dei momenti in cui ho sentito molto vicina la presenza criminale. E poi c'è l'aspetto privato, quindi una famiglia che comunque è costretta a sottostare alle conseguenze di una decisione che hai preso, e questo è sempre un interrogativo di coscienza con cui bisogna fare i conti. È stata pubblicata oggi l'intervista, non so se l'ha vista, di Saviano, che ha rilasciato El País, in cui proprio affronta questi temi che a questo punto mi pare di capire siano condivisibili. Cioè, c'è anche molta, e secondo me c'è molta affinità tra le vostre storie, c'è anche stata molta invidia a volte da alcuni settori rispetto alle denunce che voi avevate portato avanti. Questo è molto questo è normale, e chi minaccia lo sa molto meglio di tutti gli altri. La minaccia in sé poi evidentemente ti espone a una cannibalizzazione dal punto di vista dell'opinione pubblica. È stato molto coraggioso Saviano in questa sua intervista, infatti, a svestirsi un po' dai panni dell'eroe e raccontare che le delusioni più grandi, i momenti più neri, difficilmente arrivano dalla criminalità organizzata, ma arrivano un po' dalla bile o anche dall'ignoranza e dalla superficialità di quelli che dovrebbero essere i buoni, ecco, i giusti. e non ci si accorge che poi la frase detta anche con il sorriso e con molta leggerezza davanti a un aperitivo su una persona che comunque sta in queste condizioni è una frase che va a toccare una sfera di affetti, di rischi e di dolore. Lei proprio poco tempo fa insomma, è venuta fuori la notizia che l'Ndrangheta aveva ben definito insomma, come fare per ucciderla addirittura, cioè erano uscite tutte delle rivelazioni. Nonostante questo, poco tempo dopo quelle rivelazioni c'erano persone che mettevano in discussione proprio quanto lei denunciava ed erano persone... Adesso non voglio fare nomi, però erano autorevoli, erano vicine all'antimafia. Il mondo dell'antimafia è un mondo molto strano, sai perché? Perché non è nient'altro che il mondo reale anche dentro le fabbriche, dentro gli uffici. E quindi nonostante qualcuno voglia dare a questo settore un'apparenza di nobiltà d'animo, ci sono invece tutte le ipocrisie, tutte le nevrosi che si trovano in qualsiasi altro luogo. Su questo c'è un'indagine in corso, io ho sempre parlato e continuo a parlare di che cosa significhi sentire, pronunciare il proprio nome e sentire disegnato il progetto omicida. Io credo che il mondo dell'antimafia soprattutto e soprattutto per chi ha l'autorevolezza per farlo, o anche la fortuna, come nel mio caso di essere ascoltato, un dubbio debba essere qualcosa di più di un semplice sospetto e se c'è un sospetto la magistratura apposta è lì per indagare. Quindi a me la cosa che è sempre dispiaciuta e che mi dispiace anche su questa vicenda è che persone come noi che sono abituate a lavorare sulle carte giudiziarie si lasciano andare insomma delle valutazioni che sono molto personali, molto superficiali, però ci sta. Guarda, l'invidia è sempre in agguato, no? Quindi io aspetto l'esito delle indagini e confido in un mondo che capisca che cosa significhi per me, ma anche per tutte le persone che ho vicino, per i miei figli, la mia famiglia, ascoltare un'intervista del genere. Se poi qualcuno ha gli elementi per credere che sai, io mi sia costruito intorno a tutto questo, vabbè, sono dal 2006, sai, in questa situazione, ho vissuto cose anche molto più infime e basse. Alle cosche non andavano e non vanno giù gli spettacoli di Cavalli, come Do Ut Des, dove porta in scena e ridicolizza i riti mafiosi. Cavalli è uno che fa nomi e cognomi. Quando parla di legami lo fa in modo preciso e le cosche vogliono ucciderlo. Nonostante la scorta, gli spettacoli continuano e le intimidazioni pure. Nel 2009 debutta a Napoli l'Apocalisse rimandata, ovvero Benvenuta a Catastrofe di Dario Fo e Franca Rame, dove Cavalli sale sul palco come attore. Lo stesso anno realizzerà con Gianni Barbacetto A 100 passi dal Duomo. Ben ritrovate a questa nuova edizione speciale di Teleiato. Ricordiamo che questa edizione va in onda con la coscienza ridotta a causa delle agitazioni del Comitato di Redenzione. La notizia: Totò Nessuno, personaggio emergente dalla politica di Mafiopoli, è stato oggi eletto sindaco con voto plebiscitario, nonostante le proteste e le accuse di brogli elettorali da parte di quella sparuta minoranza che ancora crede nella legalità e in Babbo Natale. Si apre un nuovo capitolo nella storia della nostra terra, un nuovo che speriamo sia capace di riportarci ai fasti che furono di Vito Ciancimino a Palermo, autore di un'azione popolare di sostituzione di vecchi ruderi edilizi liberti con un palazzone sicuramente più funzionali e meno ricchioni. La storia di Giulio Cavalli ruota attorno al teatro e alla denuncia. In casa la famiglia lo sostiene, un esempio per tutti, anche se, dice Cavalli, l'esempio dovrebbero darlo proprio tutti, ogni giorno. Ah beh, certo, ma io penso, sai, che anche lo sportellista della manca o anche il bidello in realtà abbiano il dovere di essere esempio, quindi lo diceva Pericle ai cittadini ateniesi. Sento la responsabilità, sì, di avere questo lato pubblico, ma cerco sempre, e devo dire di esserci riuscito, credo di avere un pubblico e un privato che siano assolutamente collegati dal filo rosso della coerenza in tutto quello che faccio. E quindi non ho particolari posture davanti ai ragazzi che poi abbandono o contraddico nella vita privata. Forse è questo che poi infastidisce, no? Tutti i mafiosi e quelli antimafiosi. Senta, lei come se lo immagina il futuro dei suoi figli, dei miei figli, insomma, dei bambini italiani che saranno adulti tra 10-15 anni? Assolutamente migliore dal punto di vista antimafioso, che hanno una consapevolezza non dettata dall'urgenza, perché non sul tema, perché lo studiano e lo affrontano fin da piccoli, quindi mi auguro che avvenga quanto prima una rottamazione della classe dirigente antimafiosa, io in primis. E credo che le nuove generazioni si stanno rivelando assolutamente molto più permeabili da questo punto di vista. Io non posso non essere ottimista. Tieni conto che se non fossi ottimista sarei un pazzo criminale a far vivere quello che faccio vivere alle persone vicine a me. Questa puntata termina qua, vi ringrazio per essere stati con noi, vi rinnovo l'appuntamento sempre a domenica, sempre alle 13.30. Se volete potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Potete riascoltarci in podcast. Buona giornata a tutti, da Cristina Carpinelli. Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma, una mamma, un amante, una figlia, un impegno.